ad alta voce. Agnese Nano legge Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens. Traduzione di Marisa Sestito. Prima puntata. L'alba. Un'antica città inglese con la cattedrale. Come fa a essere qui l'antica città inglese con la cattedrale? La vecchia cattedrale con la sua torre familiare, massiccia, grigia, quadrata. Come fa la torre a essere qui? In nessun punto del paesaggio reale vi è uno spuntone di ferro arrugginito che si erga tra l'occhio e la torre. Cos'è lo spuntone che si frappone? E chi l'ha tirato su? Forse è lì su ordine del sultano per impalare un'orda di predoni turchi uno dopo l'altro. È così, poiché risuona il clangore dei cembali e il sultano passa diretto al palazzo in un lungo corteo. 10.000 scimitarre lampeggiano nella luce del sole e 3 volte 10.000 fanciulle danzanti spargono fiori. Poi avanzano elefanti bianchi con gualdrappe di infiniti sontuosi colori, innumerevoli gli elefanti e innumerevoli gli accompagnatori. Eppure la torre della cattedrale continua a stagliarsi sullo sfondo, dove non può essere. E neppure una figura si contorce sul tetro spuntone. Aspetta. Può mai essere lo spuntone una cosa così ordinaria come lo spuntone arrugginito sopra la colonnina di una vecchia lettiera sgangherata? Un'indefinita pausa di riso sonnolento va dedicata a considerare questa possibilità. Scosso da un tremito dalla testa ai piedi, l'uomo, la cui coscienza si è così fantasticamente rappezzata, solleva infine il busto, sostiene sulle braccia il corpo tremante e si guarda intorno. Si trova in una piccola stanza, più di ogni altra squallida e soffocante. Attraverso la tenda logora, la debole luce dell'alba penetra da una misera corte. Giace vestito di traverso su un letto ampio e indecente, il cui telaio ha ceduto sotto il peso. Distesi, anch'essi vestiti e anch'essi di traverso, non nel senso della lunghezza, ci sono un cinese, un marinaio indiano e una donna scarna. I primi due sono in uno stato di sonno o stordimento. La terza sta tirando da una specie di pipa per accenderla, e mentre tira e schermandola con la mano magra ne concentra la favilla di luce rossa nella mattina buia, essa funge da lampada e gli mostra quello che vede lei. Un'altra, dice la donna in un lamentoso sussurro ansante. Te ne fai un'altra? Lui si guarda intorno con la mano sulla fronte. 5 te ne sei fumate da quando sei venuta a mezzanotte, prosegue la donna con querulo intercalare. Ah, poveretta me, gli affari non vanno, non vanno. Quei due sono arrivati che te eri già qua. Pochi ce ne stanno di cinesi giù ai moli, e di indiani anche di meno, e di navi ne arriva neanche l'ombra, dicono sti due. Eccote la bella pronta, gioia. Ma te, anima buona che sei, poi te lo ricordi, no? Che di sti giorni costa un accidente. Un misurino più che 3 scellini e mezzo. E te, te lo ricordi, no? Che il segreto per mischiarlo ce l'ho solo io. E già che il cinese è giù in fondo al cortile, ma mica è bravo come me. E te, gioia, a me mi paghi secondo il giusto, no? Tira dalla pipa mentre parla e, occasionalmente, gorgogliando, aspira buona parte del contenuto. Ai, ai, poveri miei polmoni, ce l'ho a pezzi. È quasi pronta, gioia. poveretta me, questa povera mano trema che pare che mi cade. Ti vedo che torni di qua e mi dico, poveretta che sono. Adesso gliene preparo un'altra e poi lui se lo tiene a mente a quanto sta all'oppio e mi paga secondo il giusto. Oh, povera la mia testa. Io le pipe me le faccio coi vecchi calamai da un soldo. Guarda qua, gioia, come questa. E ci infilo un bocchino, così. E da questo ditale qua ci tiro fuori la mia miscela con questo cucchiaino di corno. E così la riempio, gioia. Ah, i miei poveri nervi. Per 16 anni mi sono ubriacata dura prima che sono passata a questo. Ma mica fa male l'oppio, neanche a parlarne. E poi ti cava la fame, uguale che se mangi, gioia. Gli allunga la pipa quasi vuota e sprofonda all'indietro, girandosi a faccia in giù. Malfermo, si alza dal letto, poggia la pipa sulla lastra di pietra del focolare, apre la tenda logora e osserva con ripugnanza i suoi tre compagni. Nota che la donna, per effetto dell'oppio, si è trasfigurata in una strana somiglianza col cinese. Il suo aspetto, guancia, occhio, tempia, colore, si ripete in lei. Detto cinese, lotta in modo convulso con uno dei suoi molti dei, o demoni forse, ringhiando orribilmente. L'indiano ride e sbava. La padrona di casa è quieta. Che visioni può avere lei? Riflette l'uomo sveglio mentre le gira la faccia verso di sé e sta lì in piedi a guardarla. Botteghe di macellai e bettole e credito a volontà? Un aumento di ripugnanti avventori e questo orrendo giaciglio rimesso a nuovo e questa orrenda corte ripulita? Per quanto oppio prenda, a cos'altro può aspirare lei? Eh? Si china avvicinando l'orecchio per ascoltare i suoi borbottii. Incomprensibile. Mentre osserva le contrazioni spasmodiche e le fitte che rompono da faccia e membra come lampi discontinui da un cielo buio, un qualche contagio si impadronisce di lui, tanto che deve arretrare fino a una logora poltrona accanto al focolare, piazzata lì forse per emergenze di quel genere, e sedersi tenendovisi aggrappato finché non ha la meglio su questo immondo spirito di imitazione. Poi ritorna. Si avventa sul cinese e stringendogli la gola con entrambe le mani con violenza lo gira sul letto. Il cinese afferra le mani aggressive, resiste, annaspa e strepita. Cos'è che dici? Una pausa attenta. Incomprensibile. Allentando lentamente la presa mentre ascolta con sguardo vigile l'incoerente vocio, si volta verso l'indiano e lo trascina giù sul pavimento. Quando cade, scatta in posizione semieretta, guarda con occhi torvi, frusta l'aria con le braccia ed estrae un coltello fantasma. A quel punto diviene evidente che la donna si è impossessata del coltello per sicurezza. Infatti, mentre lei di colpo si solleva, trattenendolo e protestando, il coltello si intravede tra i suoi vestiti, non tra quelli di lui, quando torpidamente ricadono indietro, fianco a fianco. Vi è stato un gran parlottare e vociare tra loro, ma inutilmente. Quando una qualche parola distinta è stata lanciata nell'aria, essa non ha avuto senso o correlazione. Pertanto, incomprensibile è di nuovo il commento dell'osservatore, che lo accompagna con un rassicurato cenno di assenso e un tetro sorriso. Poi mette sul tavolo una certa quantità di monete d'argento, trova il cappello, scende a tentoni la scala sconnessa, dà il buongiorno a un qualche portiere addormentato in un nero sottoscala infestato dai ratti ed esce. Quello stesso pomeriggio la massiccia, grigia, quadrata torre di una vecchia cattedrale si erge dinanzi alla vista di un viaggiatore sfinito. Le campane rintoccano per il vespro quotidiano e lui deve necessariamente assistervi, si direbbe, dalla fretta che ha di raggiungere la porta aperta della cattedrale. Il coro sta indossando le bianche cotte sudice frettolosamente quando lui arriva in mezzo a loro e si infila la sua e si unisce alla processione che ordinatamente entra per la funzione religiosa. Poi il sagrestano sarà il cancello di ferro che divide la navata dal presbiterio e tutti i partecipanti alla processione, sistematisi rapidamente ai loro posti, nascondono la faccia. E poi le parole intonate quando l'uomo malvagio si innalzano tra le nervature di archi e travi della volta, risvegliando un rimbombo di tuono. Un decano e un capitolo in sovrappiù. Chiunque abbia osservato quell'uccello posato e clericale che è il corvo avrà forse notato che quando la posata e clericale compagnia vola verso casa prima del buio, due corvi si staccano improvvisamente dagli altri, tornano indietro per un certo tratto di volo e poi indugiano e si librano nell'aria. Talché i comuni mortali sono indotti a immaginare che una qualche occulta rilevanza politica risieda nel fatto che la scaltra coppia finga di aver rinunciato a far parte del gruppo. Analogamente, conclusasi la funzione nella vecchia cattedrale con la torre quadrata, tornato fuori strisciando il coro e allontanatesi varie venerabili persone di aspetto corvino, due di queste ritornano sui loro passi e passeggiano insieme sul sagrato pieno di echi. Non solo il giorno sta declinando, ma anche l'anno. Il sole basso è infuocato e tuttavia freddo dietro le rovine del monastero, e la vite vergine sul muro della cattedrale ha sparso metà delle sue foglie rosso scure sul selciato. Oggi pomeriggio ha piovuto e un brivido invernale passa tra le piccole pozze del lastricato crepato e sconnesso e attraverso gli olmi immensi mentre versano un fiotto di lacrime. Le foglie cadute giacciono spesse, sparse intorno. Alcune di queste foglie, in timida sortita, cercano asilo sotto le basse arcate della porta della cattedrale, ma due uomini che ne stanno uscendo oppongono resistenza e le rigettano fuori coi piedi. Fatto questo, uno dei due chiude la porta con una grossa chiave e l'altro si allontana con le ali ai piedi, stringendo un volume di spartiti. «Era il signor Jasper, quello, Top?» «Sì, decano. Si è fermato a lungo?» «Sì, decano. E io sono rimasto per lui, reverendo, perché ha avuto un leggero malstare.» «Malessere, Top. Dite malessere al decano.» Con questo tocco di correzione si intromette a voce bassa il corvo più giovane, come per dire: la lingua scadente offritela pure ai laici, al basso clero, ma non al decano. Il signor Top, sacrestano, capo e guida, avvezzo al grande apprezzamento dei gitanti, con muta alterigia si rifiuta di notare che un qualsiasi suggerimento sia stato rivolto a lui. «E quando e come il signor Jasper ha avuto un leggero malessere?» «È meglio dire malessere, come ha osservato il signor Crisparkle.» «Malessere», ripete il decano. «Quando e come il signor Jasper ha avuto un malessere?» «Malessere, signore», mormora Top, deferente. «Top? Beh, signore, era così sfiatato.» «Non direi così sfiatato, Top», si intromette Crisparkle con lo stesso tocco di prima, troppo colloquiale per il decano. «Affannato a tal punto», osserva condiscendente il decano, non poco lusingato dall'indiretto omaggio, «sarebbe preferibile.» «Il respiro del signor Jasper era talmente ansimante.» In questo modo, con discrezione, Top aggira il masso sommerso al suo arrivo, che con grande fatica gli è riuscito di tirar fuori le note. E forse questa è stata la causa di una specie di crisi poco dopo. La memoria gli si è offuscata. Top, con gli occhi fissi sul reverendo Crisparkle, spara la parola come sfidandolo a trovare una migliore. E l'ha preso una fiacchezza, una vertigine strana come non ho mai visto, anche se lui, per conto suo, non pareva dargli gran peso. Comunque, un po' di tempo e un po' d'acqua l'hanno sollevato dal suo offuscamento. Topper ripete la parola e l'enfasi con l'aria di dire: visto che mi è andata bene una volta, adesso lo rifaccio. E quando è andato a casa si era ripreso il signor Jasper? Chiede il decano. Sì, reverendo, quando è andato a casa si era ripreso e sono contento di vedere che ha acceso il fuoco, perché dopo la pioggia ha rinfrescato e oggi pomeriggio l'umido in cattedrale si sente, si tocca e lui tremava come una foglia. Tutti e tre guardano verso una vecchia casa di pietra, perpendicolare al sagrato, attraversata da un passaggio a volta. Da dietro i vetri molati della finestra risplende il fuoco sulla scena che rapidamente scurisce, avvolgendo nell'ombra le masse pendenti dell'edera e dei rampi canti che coprono la facciata della costruzione. Quando la campana della cattedrale cupamente batte l'ora, un'increspatura di vento le attraversa nella lontananza, come fosse il riverbero del suono solenne che ronza tra tomba e torre, nicchia sbrecciata e statua sconciata dell'edificio lì accanto. «Suo nipote è con lui?» chiede il decano. «No, signore», risponde il sacrestano, «ma è atteso. Tra le due finestre, una che guarda da questa parte e l'altra che guarda sul corso, c'è solo la sua ombra solitaria e ora tira le tende». «Bene, bene», dice il decano vivacemente, con l'aria di concludere il breve colloquio. «Spero che il cuore di Jasper non sia troppo preso dal nipote. I nostri affetti, per quanto encomiabili, non dovrebbero dominarci in questo mondo transeunte. Dovremmo essere noi a guidarli». Al suono della campanella mi sento piacevolmente sollecitato a pensare alla cena. «Signor Crisparkle, forse prima di andare a casa passerete da Jasper?» «Certamente, decano, per dirgli che volete cortesemente sapere come sta». «Sì, sì, fatelo, certamente. Sapere come sta, assolutamente, sapere come sta». Con paternalistico compiacimento il decano si sistema il pittoresco cappello sulle 23, presso a poco come farebbe un decano di buon umore, e indirizza le sue belle ghette verso la rossastra stanza da pranzo dell'accogliente vecchia casa di mattoni rossi, dove attualmente risiede con la sua signora moglie e la sua signorina figlia. Crisparkle, canonico minore, biondo e roseo, perennemente incline a tuffarsi di testa in tutti i profondi torrenti della campagna circostante. Crisparkle, canonico minore, mattiniero, musicale, classicista, gaio, cortese, bonario, socievole, appagato, fanciullesco. Crisparkle, canonico minore, è uomo buono. Già precettore sulle strade maestre pagane, ma recentemente promosso al suo attuale territorio cristiano da un mecenate, diretto a casa a desinare di buon'ora, si reca alla casa di pietra. «Mi dispiace di sentire da Top che non vi siete sentito bene, Jasper». «Oh, una cosa da niente, da niente. Sembrate provato. Davvero? No, non mi pare. Meglio ancora, non mi ci sento. Un'esagerazione di Top, immagino. È per via del mestiere che fa, lo sapete anche voi. Esagera sempre se in qualche modo c'entra la cattedrale. Posso riferire al decano? Son qua per suo espresso desiderio. Che vi siete rimesso?» La risposta, accompagnata da un lieve sorriso, è: «Certamente, con i miei ossequi e ringraziamenti al decano». «Sono lieto di sentire che aspettate il giovane Drood. Aspetto il mio caro ragazzo da un momento all'altro». «Ah, vi gioverà più di un medico, Jasper. Più di una dozzina di medici. Per lui ho grande affetto, mentre non ne ho per niente per i medici e i loro intrugli». Jasper è un uomo scuro di circa 26 anni, con capelli e favoriti neri, folti, lustri e ben ravviati. Sembra più vecchio della sua età, come è spesso il caso dei bruni. La sua voce è bella e profonda, il viso e la figura sono armoniosi, i modi un po' cupi. Un po' cupa è la sua stanza e forse ne ha influenzato i modi. È quasi sempre in ombra, anche quando il sole splende radioso. raramente sfiora il grande pianoforte nell'angolo o i volumi dispartiti sul leggio o gli scaffali lungo la parete o il ritratto non finito di una ragazza in fiore sopra il camino. I fluenti capelli castani legati con un nastro azzurro e la bellezza rimarchevole per un tocco fanciullesco, infantile quasi. Non vi è il minimo merito artistico nel ritratto, che è ben poca cosa, ma è evidente che il pittore l'ha reso umoristicamente, vendicativamente, si potrebbe quasi dire, somigliante all'originale. Suoni di riconoscimento e di saluto passano tra il reverendo Chris Parkle e qualcun altro ai piedi della scala. Jasper ascolta, si alza di scatto dalla sedia e stringe tra le braccia un giovanotto esclamando: «Mio caro Edwin, mio caro Jack, che felicità vederti! Levati il mantello, radioso ragazzo, e siedi qui nel tuo angolo. Levati gli stivali, avanti, levati gli stivali. Da bravo, smettila di smaniare!» Frenato nella sua affettuosa manifestazione di entusiasmo dalla reazione indispettita, Jasper rimane fermo e guarda intensamente il giovane che si leva il cappotto, il cappello, guanti e così via. Una volta per tutte, uno sguardo intento e intenso, uno sguardo di affetto famelico, esigente, vigile e tuttavia devoto, è sempre, ora e in ogni successiva occorrenza, sulla faccia di Jasper tutte le volte che la faccia di Jasper si rivolge in questa direzione. E in qualunque caso sia così rivolta, essa non è mai, né in questa né in qualsiasi altra occasione, rivolta con attenzione divisa. È sempre concentrata. Adesso sono a posto. E adesso mi sistemo nel mio angolo. Niente cena, Jack? Jasper apre una porta in fondo alla stanza, scoprendo una stanzetta interna piacevolmente illuminata e apparecchiata, dove una signora di bell'aspetto sta mettendo i piatti in tavola. «Ma che bel tipo, il vecchio Jack!» grida il giovane, battendo le mani. «Senti, Jack, dimmi un po', di chi è il compleanno oggi?» «Tuo no, di sicuro, questo lo so», risponde Jasper, riflettendo. «Mio no, di sicuro?» «No, mio no, questo lo so io». «Di Pussy!» Fisso com'è lo sguardo che il giovane incontra, vi è tuttavia in esso un qualche strano potere di includere repentinamente lo schizzo sopra il camino. «Di Pussy, Jack. Dobbiamo farne di brindisi alla sua salute. Vieni, zio. T'accompagna a tavola il tuo nipote rispettoso e affamato. Quando il ragazzo, perché è poco più di questo, mette la mano sulla spalla di Jasper, Jasper, con cordialità e allegria, mette la mano sulla sua spalla». E così alla Marseillaise entrano a cenare. «Signore Dio, la signora Taupe!» grida il ragazzo. «Più carina che mai!» «A me lasciatemi stare, signorino Edwin», replica la moglie del sacrestano, «che so badare a me stessa». «Non è vero, siete troppo attraente. Su, datemi un bacio, è il compleanno di Pussy». «Vi pusserei io per le feste, giovanotto, se fossi Pussy, come la chiamate voi», replica la signora Taupe arrossendo dopo il saluto. «Vostro zio vi sta troppo addosso, ecco com'è, vi dà tanto di quel peso, e per come la vedo io, vi credete che basta chiamarle le vostre Pussy che loro arrivano a frotte?» «Dimenticate, signora Taupe», interviene Jasper prendendo posto a tavola con un sorriso cordiale. «E tu pure, Ned, che qua dentro zio e nipote sono parole proibite per consenso comune ed esplicito accordo. Sia lodato il suo sacro nome per quanto stiamo per ricevere. Tale quale il decano, testimone Edwin Drood. Trincia tu la carne, Jack, io non lo so fare». Questa sortita introduce la cena. Il consumarla poco si dice sull'argomento in oggetto, su qualunque altro argomento. Infine viene tolta la tovaglia e vengono messi in tavola un cestino di noci e una caraffa di sherry dal colore intenso. Thank you.